multinazionali, ma che cazzo di multinazionali, quante cazzo di multinazionali, ma che cazzo di multinazionali. Quante cazzo di multinazionali, quante cazzo di multinazionali.